mentre stavo per concludere la registrazione, non posso esimermi dal commentare un grande billboard, un grande cartellone, uno di quei 2x3 costosissimi che influenzano l'opinione politica degli italiani, che campeggia qui all'angolo tra Via della Sorte e Via di Boccea. È un cartellone dell'organizzazione giovanile, credo, non so se di Alleanza Nazionale o addirittura del Fronte Nazionale, ma poco importa. L'organizzazione si chiama Azione Giovani e fa parte di una campagna abbastanza costosa, indubbiamente, è abbastanza articolata, che ha il pregio della chiarezza. Vengono posti a confronto dei valori e dei controvalori. Poi chiaramente si può essere d'accordo su questo confronto o meno. Allora, il cartellone qua davanti mostra nella parte sinistra, non vorrei sbagliarmi perché è alla rovescia, ok, nella parte sinistra c'è un gruppo di paracadutisti che si lancia nel vuoto, forma una di queste formazioni, se mi si perdono il gioco di parole. E nella parte destra invece ci sono dei tossicodipendenti, quindi il confronto è adrenalina oppure droga, e immagino che Azione Giovani si schieri nettamente a favore dell'adrenalina. Poi ci sono altri cartelloni che ho visto nei giorni scorsi in giro per Roma, uno che pone a confronto da una parte la solidarietà, dall'altra l'assistenzialismo come controvalore negativo, e poi c'è un altro, forse il più interessante di tutti, che pone a confronto l'ideologia e l'appartenenza, dove per ideologia fatalmente si parla dell'ideologia di sinistra e per appartenenza invece del patriottismo, che dovrebbe essere un valore comune. Sul concetto di patria poi magari parleremo in altri deliri in futuro, però allora si possono commentare quello sull'ideologia del patriottismo, ma si può anche dire, si potrebbe anche controbattere, dire che il patriottismo è in realtà una categoria di un'altra ideologia, che è il nazionalismo. Quindi a questo punto mettere a confronto una categoria e una sottocategoria non mi sembra molto corretto. Adesso i miei studi sono piuttosto traballanti in generale, devo dire, però questo, la formazione per esempio dell'ideologia nazionalista degli anni 20 è un fatto difficile da contestare. Poi c'è quell'altro grande billboard che parla di assistenzialismo e solidarietà. Posso anche essere d'accordo nel considerare la solidarietà un valore e l'assistenzialismo un controvalore. Il problema è chi è proprietario del valore della solidarietà. Non credo che possa essere l'organizzazione giovanile di una formazione politica che organizzava raid contro gli immigrati fino a qualche anno fa. Forse adesso hanno cambiato politica anche loro su un terreno nel quale sono stati scavalcati dalle varie leghe. Ma... E poi c'è quest'ultimo invece cartellone qua davanti che parla appunto di... Da una parte sono i paracadutisti e dall'altra i tossicodipendenti. Allora, dato che non ho mai avuto la fortuna di provare a lanciarmi col paracadute, non so se... Una volta ho provato il parapendio, era una cosa veramente all'acqua di rose in un villaggio turistico, quindi non credo che valga. Allora, non avendo mai provato il paracadute, credo che dovrò al più presto procurarmi una dose, visto che questa è la categoria alla quale appartengo, evidentemente.